Quindi partiamo con la prima telefonata. Un saluto alla compagna che è qui in onda con noi, che ci parlerà di queste giornate Fare la differenza, una serie di seminari itineranti per le scuole di Torpignattara e Quinto Municipio. Sì, diciamo qui. Intanto ciao. Grazie dello spazio, sono molto onorata di avere questo privilegio di aprire il martedì. Vedi, eh? Allora, l'iniziativa si chiama Fare la differenza e si inserisce in un percorso nazionale che è quello di educare le differenze, di cui il martedì ha ampiamente parlato, sull'educazione di genere, diciamo. C'è stato un grande incontro a settembre, appunto la restituzione c'è stata anche attraverso i microfoni della radio, quindi non mi dilungo. Questa iniziativa, diciamo, da quell'incontro un gruppo di insegnanti e genitori ha organizzato delle riunioni dove da cui poi, diciamo, è scaturita questa proposta progettuale un po', diciamo, ad ampio spettro, perché riguarda sia laboratori in orario scolastico per i bambini e le bambine della scuola dell'istituto comprensivo delle scuole, perché sono 5 plessi dell'istituto comprensivo Ferraironi, curati da associazioni esterne, in particolare l'associazione Dalia presso la scuola Pisacane e da alcune insegnanti presso la scuola Ferraironi, e di incontri per adulti, e consta anche, diciamo, di incontri per adulti sempre sulle tematiche dell'educare le differenze. Questi incontri il primo di questo ciclo di incontri inizia venerdì prossimo 23, inizia bene con uno spettacolo di teatro partecipato. Non so se comunque il teatro partecipato consiste in uno spettacolo teatrale dove il pubblico, se vuole, può intervenire. Sì. Dal titolo L'Orsacchiotta, mi si sembra. Si chiama L'Orsacchiotta, è uno spettacolo che i bambini e le bambine della scuola, delle scuole, hanno già visto, diciamo, già hanno visto in orario scolastico. Questo sarà per i grandi. C'è una email che si chiama Fare la differenza, un indirizzo email Fare la differenza @inventati.org, al quale si possono chiedere tutte le varie informazioni. È prevista un intrattenimento sì, per i bambini di chi vuole partecipare, in una sala adiacente alla sala dove si tiene lo spettacolo. Quindi si inizia subito così, con l'interazione. Si inizia così, ma diciamo che un po' tutti gli incontri sono pensati in questo modo, non sono né lezioni frontali né diciamo le persone che abbiamo invitato non vogliono avere questa veste di esperti, casomai aiutarci genitori, insegnanti, persone del quartiere, perché poi sono incontri aperti a tutti e a tutte, a porci delle domande riguardo a, in particolare, diciamo, noi sulle differenze in generale, ma abbiamo fatto questo focus sugli stereotipi di genere, sulle differenze di genere, perché ci sembra un tema che anche proprio dai bambini, dai giochi che fanno, da quello che ci raccontano, che sia abbastanza cruciale in questo momento, sì, della loro crescita, ecco, e che poi sappiamo poi condizionare le scelte future di indirizzo scolastico, di professione, eccetera. Quindi è importante riflettere come adulti. I bambini già lo fanno, ripeto, alcune insegnanti già, diciamo, portano avanti dei progetti in questo senso, altre magari no, altre magari inconsapevolmente invece veicolano stereotipi e ruoli che noi invece vogliamo pezzettino per pezzettino cercare di decostruire, per provare a lasciare più libertà nella scelta e nelle decisioni di ciascuna e di ciascuna bambina. Ma vuoi dirci un po' com'è questo programma? Quali, allora, sono gli incontri? Io adesso non ce l'ho davanti, quindi le date magari poi le ricordi tu, però diciamo iniziamo con lo spettacolo, che ci serve proprio per la tecnica del teatro partecipato, del teatro forum. È proprio così: ti togli il tuo abito che hai, sei una persona, stai lì, intervieni e, diciamo, stimola molto una comunicazione diretta, che ci serve per gli incontri futuri, appunto, dove si parlerà di sessualità, di didattica, di mass media, di prodotti per l'infanzia, perché abbiamo invitato dunque il 27 febbraio il primo incontro è con Pina Caporaso, che voi conoscete e che sì, è un'insegnante, sì, di Pistoia, formatrice, che lavora tanto sulla questione della didattica di genere. Poi il 20 marzo c'è Tiziana Franceschini, che è una psicoterapeuta danzatrice che fa un lavoro integrato tra psicoterapia e corpo, che si chiama Sessualità e Affettività. Poi ci sarà un incontro con Loredana Nipperini presso la scuola Pisacane sul tema dei prodotti, degli stereotipi di genere nei prodotti per l'infanzia, il 17 aprile. 17 aprile e l'ultima data mi pare 20 maggio 22, 22 maggio. Francesca Tonucci, che è una psicoterapeuta che lavora sui disturbi dell'alimentazione, che ci parlerà proprio, diciamo, di come i condizionamenti culturali purtroppo vanno a interagire con delle patologie che sicuramente già sono e che non riguardano solamente, parliamo di anoressia e bulimia, che purtroppo riguardano molte adolescenti oggi, e sulla quale si innestano appunto dei condizionamenti culturali, aggravando e complicando la possibilità di una guarigione. Quindi, e questa si terrà presso la scuola Baracca, che è la scuola media, visto il target, insomma, sì, diciamo, di un po' più grande magari. Sì. Sì, noi auspichiamo ovviamente la presenza di molte insegnanti o comunque di chi ha a che fare con l'educazione, quindi anche persone singole, genitori, nonni, zie, zii, chi vuole può venire, e ogni contributo ovviamente è prezioso. L'importante è che si venga con la voglia di farsi delle domande, non tanto di avere delle risposte, perché probabilmente se avessimo delle ricette o delle risposte pronte non saremmo neanche qui a parlarne. No, insomma, cerchiamole. Quindi, insieme, mi sembrano degli ottimi strumenti questi, anche dei seminari molto interessanti, trattano anche tanti temi differenti. Io la cosa che ti invito è, ovviamente, risentiamoci a margine di ogni incontro, perché è uno al mese, quindi possiamo tranquillamente, sì, risentirci, magari anche se riusciamo ad avere insomma al telefono in studio anche le donne che saranno lì a tenere questi seminari, vediamo un po', poi ci organizziamo, insomma, il perché tempo no, certo. Volentieri. Noi ti ringraziamo per averci raccontato queste giornate, invitiamo ovviamente venerdì 23 gennaio a partecipare all'Orsacchiotta, spettacolo teatrale dove il pubblico può partecipare. Non vi spaventate, insomma, andate. No, è molto divertente. Via Ferraironi 38, ore 16:45. Perfetto, noi ti ringraziamo e ovviamente ci aggiorneremo ogni volta per ogni incontro. D'accordo, grazie e buon martedì. Grazie a te per il tuo tempo. Ciao. Ciao.